24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. Mario Draghi è Berlino alla giornata della BDI, la Confindustria tedesca, è ottimista. Ci sono numerose ragioni per essere positivi su dove stiamo andando in Europa. Ci aspettiamo che l'economia migliori l'anno prossimo se tutti faranno la loro parte. Il presidente della BCE e la cancelliera tedesca Angela Merkel si sono detti d'accordo sulla necessità di introdurre delle riforme nell'Unione Europea. Da Berlino Alessandro Merli. Sì, buonasera, è andata bene dal punto di vista di Draghi, che in un certo senso ha scelto come miglior difesa l'attacco spesso preso di mira dall'opinione pubblica tedesca, dai media tedeschi per le sue proposte di acquistare dei titoli dei paesi dell'Eurozona in difficoltà. Draghi all'assemblea degli industriali tedeschi ha spiegato che la Germania è uno dei grandi beneficiari dell'euro e poi ha proferito il massimo rispetto per la Bundesbank, però ha detto anche che l'opzione della Bundesbank di non fare niente, di dire di no a tutto, è in questo momento una causa di maggior rischio che non le azioni che la BCE intende intraprendere. Alla fine dell'incontro con la Merkel l'ufficio del cancelliere ha diffuso una breve nota in cui ha detto che i due si sono trovati d'accordo su tutto, sul fatto anche che in Europa c'è bisogno di riforme, perché Draghi ha detto anche questo, ha detto: noi abbiamo preso delle misure eccezionali, però funzioneranno solo se i governi poi faranno la loro parte. E ha dato anche un piccolo segnale di ottimismo, ha detto: l'economia tornerà a crescere l'anno prossimo, appunto, se tutti faranno la propria parte. Grazie ad Alessandro Merli. E Angela Merkel, intervenendo alla giornata della BDI, ha detto: ci sono ancora molti compiti da fare a casa. La cancelliera ha sottolineato che molto è stato fatto, ma che per superare la crisi serve ancora tempo. La Merkel ha ribadito che un'unione del debito ci riporterebbe dove eravamo prima. No responsabilità senza controlli, ha sottolineato la cancelliera. Troppo spesso in passato, nell'Unione Europea, abbiamo disatteso le promesse, ha spiegato la Merkel, come quella di diventare la realtà economicamente più dinamica entro la fine del decennio scorso. Scorso proposito chiaramente non mantenuto, ha concluso la Merkel. Il governo greco sta valutando di proporre una proroga dei rimborsi dei debiti contratti con la Banca Centrale Europea per far fronte al buco di bilancio che sta allontanando gli obiettivi concordati di risanamento. Lo ha detto il viceministro delle Finanze, Christos Staikouras. La BCE e le banche centrali nazionali dell'Eurozona hanno circa 28 miliardi di titoli greci che scadranno entro fine 2016. Il presidente del Consiglio della UE, Herman Van Rompuy, ha lanciato un appello ai leader dell'Unione affinché non si perda il senso di urgenza per risolvere la crisi della zona dell'euro. Constato una tendenza a dimenticare il senso di urgenza sia nelle politiche a breve che in quella a medio e lungo periodo, dichiara Van Rompuy in un video postato sul sito del Consiglio. Finché 25 milioni di persone stanno cercando un lavoro e finché non abbiamo stabilizzato pienamente l'euro, non possiamo sederci, ha concluso. L'Italia sostiene la proposta della Commissione europea sul prossimo bilancio comunitario. Guardiamo con ottimismo alla possibilità di chiudere i negoziati a novembre. Così il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi al termine dell'ultimo round di trattativa a Bruxelles. Lo ha intervistato Sergio Nava. Come Italia noi sosteniamo la proposta che ha fatto la Commissione, che è quella di mantenere la dotazione di bilancio del periodo precedente 2007-2013 attualizzata naturalmente in termini di valore reale. Ci sono alcuni altri paesi che vedrebbero necessaria una riduzione del bilancio dell'Unione Europea, così come viene fatto per molti bilanci nazionali, ed altri che invece sostengono questa proposta. Noi la sosteniamo perché? Perché noi pensiamo che il bilancio dell'Unione Europea abbia un oggettivo valore aggiunto, possa rappresentare un volano di spesa condivisa fra gli Stati che può aiutare questo sviluppo condiviso dell'Europa, che secondo noi è estremamente importante. I singoli Stati da soli non sono gran cosa, mentre uniti nell'ambito dell'Unione Europea possono essere un attore importante in un'economia che già prima della crisi si era globalizzata. Questo è il motivo per cui guardiamo anche con un costruttivo ottimismo la data di novembre per avere quantomeno un forte chiarimento tra le delegazioni nazionali e auspicabilmente la. E le parole di Mario Draghi, con cui abbiamo aperto questa edizione, hanno contribuito a far recuperare le borse del vecchio continente, tutte positive. Dopo un cambio di rotta nel pomeriggio, le borse europee hanno tutte chiuse in rialzo, incoraggiate dall'andamento di Wall Street e dalle parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Da Berlino, il numero uno dell'Eurotower ha dichiarato che ci sono ragioni per essere ottimisti se gli stati europei porteranno avanti le riforme. La zona euro ha fatto progressi e gli investitori sono pronti a reinvestire, ha inoltre aggiunto. Milano ha così chiuso in progresso dello 0,41%, anche se lo spread è tornato a salire a 351 punti. Parigi ha guadagnato lo 0,47%, Londra lo 0,36%, Madrid lo 0,45%, Francoforte lo 0,16%. A Piazza Affari sono andate male le Fiat, meno 2,3%, seguendo la performance debole del settore auto europeo. Per contro sono saliti i titoli bancari, con Banco Popolare UBI che hanno vantato un progresso superiore al 3%. Telecom Italia ha registrato un guadagno dell'1% a due giorni dal consiglio di amministrazione dell'azienda, e mentre il mercato si interroga sul futuro della controllata Telecom Italia Media, più 5,5%, la controllante di La 7 ed MTV, per le quali sono state presentate 3 offerte. Mediaset ha continuato a perdere lo 0,4%, risentendo dei timori che anche nei mesi venturi sia difficile la raccolta pubblicitaria. Da Radio Core, Leonora Micheli per Radio 24. Italia e Spagna ribadiscono la propria contrarietà a una cooperazione rafforzata sul regime linguistico che esclude italiano e spagnolo a vantaggio di inglese, francese e tedesco per il brevetto unico europeo. La posizione dei due paesi è stata esposta durante un'udienza alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è stata adita dai due paesi contro la decisione presa dal Consiglio UE il 10 marzo 2011, con cui ha autorizzato 25 Stati membri su 27, tutti appunto tranne Italia e Spagna, a proseguire sulla strada di un brevetto unico trilingue. Maglia nera per la qualità dell'aria all'Italia, che ha sforato i limiti UE per il particolato, l'ozono e il monossido di carbonio, ma anche per il nichel e il benzene. E quanto emerge dal rapporto 2012 dell'Agenzia UE per l'Ambiente, presentato a Bruxelles, relativo al periodo 2001-2010. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi. Se Taranto insegna, chissà che un giorno qualcuno non decida di fermare tutto il nord Italia per i gravi rischi ambientali a cui la popolazione è sottoposta. Solo una provocazione ovviamente, ma neppure troppo, visti i dati diffusi dall'Agenzia Europea per l'Ambiente sull'aria che respiriamo. Il nostro spread in Europa su questo fronte è ben oltre le soglie d'allarme. Superiamo i limiti imposti per polveri sottili, ma anche per ozono, monossido di carbonio, nichel e benzene. Tutte sostanze che finiscono nei nostri polmoni. Sul fronte delle PM10, come noi, fanno solo Polonia, Slovacchia, Balcani e Turchia. Record assoluto in negativo per l'Italia sul fronte dell'ozono, dove nel 2010 i valori europei più alti sono stati registrati da noi nelle regioni del nord. Per non parlare del monossido di carbonio, di cui il nostro è l'unico paese ad essere riuscito a sforare i limiti nel 2001, nel 2005 e nel 2010. Certo, ammettono anche le autorità europee, la geografia non aiuta. La pianura padana è una sacca di ristagno e per di più l'Italia è un crocevia per le masse d'aria generate più ad est. Certo, di anno in anno i nostri numeri vanno meglio, ma Bruxelles ha indicato come preoccupanti le situazioni di città come Milano, Novara o Bergamo. E allora, dopo tanti anni di alibi, non varrebbe fare i conti anche su questo fronte con la realtà? A chiederci un salva Italia, in fin dei conti, non è solo l'Europa, ma sono anche i nostri polmoni. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Microsoft non sfuggirà a una multa da parte della Commissione europea dopo il mancato rispetto degli impegni vincolanti sulla scelta del browser di navigazione internet, e quanto ha assicurato il commissario UE Joaquín Almunia in un'intervista alla France Press. L'infrazione c'è, è stata presente per più di un anno ed è evidente che dobbiamo reagire in modo molto fermo, ha sottolineato, perché quel che è molto grave è la mancata applicazione di impegni vincolanti. Ci sono anche le Pussy Riot, celebri per le forti critiche al regime di Putin in Russia, tra i candidati al premio Sakharov di quest'anno, assegnato dal Parlamento europeo per ricompensare le personalità che si sono distinte per la difesa dei diritti umani e delle libertà di espressione. Gli eurodeputati sceglieranno i 3 finalisti il prossimo 9 ottobre e, poche settimane dopo, verrà annunciato il nome del vincitore, che sarà premiato durante la sessione plenaria del Parlamento UE a Strasburgo il 12 dicembre. Nel 2011 il premio Sakharov era stato assegnato a 5 attivisti della Primavera Araba. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.